Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, io sono Fabiola, questa è la puntata numero 4 di A Tavola con Fabiola. Oggi vi presenterò torta caprese. Ingredienti per 6 persone: 4 uova, 160 g di zucchero, 180 g di burro, 200 g di cioccolata fondente, 300 g di mandorle sgusciate e pelate, zucchero a velo a volontà. Separare i torli dagli albumi. Montate il burro con metà dello zucchero ammorbidito. Unite quindi i tuorli e continuate a montare. Incorporate il cioccolato sciolto al bagnomaria e le mandorle tritate con lo zucchero rimasto. Aggiungete gli albumi montati a neve e mescolate con una spatola da cucina. In una tortiera precedentemente imburrata e infarinata, versate l'impasto preparato. Infornare a 180 gradi e lasciate cuocere almeno un'ora. Quando la cottura sarà terminata, estraete la torta dal forno e lasciatela raffreddare, sformatela e spolveratela con un bel zucchero a velo. Buon appetito! Grazie ai radioascoltatori di Radio Big World. Questa era la puntata numero 4 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima puntata.